Salva Danaio di Deborah Rosciani. Tornata tra di noi la sigla natalizia di Salva Danaio. Buona giornata da Deborah Rosciani, buon inizio settimana a tutti, anche se iniziamo oggi la settimana con un argomento che per la verità non fa mettere di buon umore molte delle persone che ci ascoltano, perché dobbiamo ritornare a parlare di un caso molto vecchio che è stato un nostro grande cavallo di battaglia tra il 2004 e il 2005 e nostro malgrado ci dobbiamo ritornare. Allora, 18 anni di reclusione per essere stato il cuore, il centro di quella che gli inquirenti hanno definito la più grossa fabbrica di debiti del capitalismo europeo. Una sentenza con pochi precedenti, almeno per l'Italia, quella che giovedì scorso ha condannato l'ex patron di Parmalat, Callisto Tanzi, per bancarotta fraudolenta e associazione a delinquere, emessa dal Tribunale di Parma dopo un processo durato quasi 3 anni che ha ricostruito un crack, lo ricorderete bene, da 14 miliardi. Di euro. 18 anni di reclusione a Callisto Tanzi, una sentenza esemplare, sì, ma che ha comunque lasciato l'amaro in bocca ai circa 35.000 risparmiatori vittime di questo crack clamoroso del 2003, 35.000 risparmiatori, quelli che si sono costituiti parte civile, 32.000 dei quali seguiti, fra un po' lo saluteremo, dall'avvocato Carlo Federico Grosso, che rappresenta proprio il comitato Parmalat Bond, clienti del gruppo Banca Intesa San Paolo. Ma ci sono anche azionisti della vecchia società che non hanno potuto recuperare niente, e poi tante altre migliaia di obbligazioni che si sono persi per strada in questi 10 anni, scoraggiati dai tempi della giustizia lunghissime appunto. Certo, non è che dal 2003, anno della formalizzazione del crack, tutte le vittime della truffa non abbiano tentato di essere risarciti in attesa del processo e della sentenza di condanna che è arrivata appunto settimana scorsa. Molti di questi hanno riavuto parte dei loro investimenti aderendo per esempio al concordato del 2005, con il quale le vecchie obbligazioni sono state sostituite e convertite in azioni della nuova Parmalat, poi quotata nel 2005, guidata ancora oggi dall'ex commissario straordinario, oggi amministratore delegato, Enrico Bondi. Poi ci sono stati tanti altri tasselli aggiunti al mosaico dei risarcimenti e che sono arrivati appunto dagli accordi transattivi appunto che sono stati raggiunti con le banche. Insomma, rimettendo un po' insieme tutti questi elementi, quello che oggi vogliamo fare è capire a che punto è il risarcimento di queste vittime, di queste persone coinvolte nel crack. I 35.000 obbligazionisti che vantano crediti per 600 milioni di euro, gli ex azionisti che ovviamente non è mai stato possibile quantificare in maniera precisa, se ne calcolavano almeno 30-40.000. Oltre a queste persone, oltre alle vittime di Parmalat, oggi apriremo anche tra l'altro una finestra su un altro paio di casi per darvi le ultime notizie, e cioè le persone che avevano in portafoglio i Mengozzi Bond, cioè i vecchi titoli all'Italia che sono stati convertiti in titoli di Stato italiani, e poi detentori di Tango Bond, le persone che hanno aderito la scorsa estate al nuovo piano di conversione in nuovi titoli di Stato appunto del governo argentino. Questi faremo proprio un flash su questi casi per capire se queste persone ad oggi, visto che sono operazioni teoricamente concluse, hanno sul loro conto titoli in banca i nuovi titoli. 800 24 00 24 per discutere con noi oggi, per farvi intervenire in diretta. Appunto, gran parte della trasmissione sarà dedicata a Parmalat. Io lo saluto subito perché poi deve salutarci alle 12.30 l'avvocato Carlo Federico Grosso, appunto, che, come vi dicevo prima, lo abbiamo avuto molte volte ospite della nostra trasmissione, rappresenta i 32.000 ex obbligazionisti che hanno aderito al comitato Parmalat Bond, clienti della ex San Paolo IMI, oggi Banca Intesa San Paolo. Avvocato Grosso, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere intervenuto a Salva Danaio. Allora, poi saluterò anche gli altri ospiti. Intanto vi dico già chi ci saranno con noi. Chi ci sarà con noi? L'avvocato Anna Campili, legale del Foro di Parma, dalla prima ora in prima linea nella vicenda Parmalat, perché intanto, ovviamente, abitando a Parmalat c'erano moltissimi risparmiatori che sono stati coinvolti in questa vicenda e che abitavano lì, che si sono rivolti ovviamente subito ai legali della loro città e che quindi hanno avuto modo proprio di specializzarsi ritrovarsi in questa vicenda, così come è successo per esempio ad una grande associazione dei consumatori, la Confconsumatori, che stando a Parma ha rappresentato un po' l'associazione dei consumatori che ha tenuto le redini di tutta la vicenda in questi anni, ma tanto hanno fatto anche le altre. Ci sarà con noi anche Fabio Picciolini, segretario nazionale della Diconsum, per spiegarci le novità Alitalia e Tango Bond, ma se vorrà potrà intervenire ovviamente anche su Parmalat, e queste sono appunto le persone che saranno con noi. Voglio salutare per un attimo, poi gli chiederò di stare con noi per tutta la trasmissione, prima di sentire l'avvocato Grosso, colui che sicuramente ormai ha questo riconoscimento generale, anche se non so quanto ne vada fiero, sicuramente un coraggio, una tenacia, una forza che lo ha tenuto, che gli ha dato, che lo ha fatto in modo appunto tutte queste qualità che diventasse il simbolo delle vittime di questo clamoroso crack. Io lo saluto, Andrea Cogo. Andrea è un risparmiatore che è rimasto vittima di questa vicenda, un ex azionista di Parmalat. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie a Radio 24 che tiene ancora in vita come qualche altra televisione. Esatto, adesso a prescindere dai ringraziamenti, Andrea lo conosco da sempre, perché siamo sempre rimasti in contatto appunto per questa vicenda, ci è venuto anche a trovare a Radio 24 e molti lo riconosceranno perché proprio anche in virtù della condanna a Callisto Tanzi è ricomparso di nuovo su tutti quanti i giornali, lui con i suoi cartelloni, i suoi striscioni che porta in giro per tutta Italia, la sua bicicletta. Di Andrea mi hanno raccontato tante cose oltre a conoscerlo personalmente in questi anni, e la cosa che più mi è rimasta impressa e che voglio raccontare ai nostri ascoltatori per capire anche in che situazione si trovano molte persone vittime di questa truffa è che è stato comunque protagonista, ha sempre voluto esserci anche a Montecitorio, a Palazzo Chigi, a Palazzo Madama, quando in passato tutte le vittime dei crack finanziari hanno organizzato tante manifestazioni di protesta per attirare l'attenzione della politica, che c'è stata molto poco in questi anni intorno a queste vicende. Andrea si è sempre imbarcato dal suo paese dove abita, che è Zero Branco in provincia di Treviso, di questi viaggi verso Roma ma anche verso altre città dove poi si è voluto manifestare, per esempio in Toscana, perché lui ha manifestato anche contro la banca Monte dei Paschi di Siena, che è stata la banca presso la quale ha fatto questo investimento che poi è andato a finire come sappiamo. Andrea si è sempre imbarcato di questi viaggi prendendo la sua bicicletta in spalla, raccogliendo passaggi da amici camionisti, al limite viaggiando in treno, cercando di risparmiare al massimo perché con questa vicenda ha perso tutto, e non ha mai, mi hanno raccontato, voluto accettare anche l'aiuto di persone che potevano pagargli un albergo a Roma, per esempio, perché lui, so che ha sempre detto, Roma mi ha preso tutto e io a Roma non voglio lasciare neanche un euro di un caffè. Andrea, mi hanno raccontato le cose sbagliate? No, è una battaglia che sostengo da 7 anni con qualche amico in giro per l'Italia, e grazie soprattutto a giornali qua in provincia di Treviso mi sostengono, e questa è una lotta civile che ho portato avanti conoscendo anche tante persone ridotte peggio di me, diciamo, soprattutto magari in un'età avanzata che non possono fare le battaglie che posso fare io. Questo bisogna riconoscerlo, e giornalisti che hanno rischiato e sono stati anche messi fuori da il loro lavoro perché ci davano troppo spazio. Questa è una vergogna che ho visto. Ah, anche questo, vabbè, a noi per fortuna non è successo, anzi mi stanno dicendo sempre di ritornare a mantenere viva l'attenzione su questi argomenti. Andrea, tu hai perso 77.000 euro per l'acquisto di azioni Parmalat, non obbligazioni, perché qua appunto, siccome poi la storia è andata in maniera molto diversa a seconda della tipologia di investitore, di risparmiatore che si era, hai fatto questo acquisto e questo investimento con Banca Monte dei Paschi, hai ricevuto in questi anni delle proposte di risarcimento dalla banca, so che ne hai avute, che però non ti hanno soddisfatto, per cui tu vai avanti con la tua battaglia perché vorresti rientrare evidentemente in possesso di tutto quello che avevi investito, vorresti essere risarcito integralmente. Com'è stata la tua storia da questo punto di vista? Diciamo che noi abbiamo creduto in questo sistema imprenditoriale anche privato, siamo stati indotti a crederci, e adesso soprattutto anche quelli che siedono in banche del governo ci dovranno dare una mano, e soprattutto anche tutte le promesse che ci hanno fatto sulla legge salva imprese, salva Parmalat, che dovrebbe anche farci rientrare nella Parmalat con recupero del capitale, senza magari pensare anche di essere indennizzato dei danni. Certo, tu dici, io a me basterebbe magari rientrare, ridiventare azionista anche a me della nuova Parmalat. Noi ci crediamo perché abbiamo tanto creduto in una grande azienda italiana alimentare, è stato un sogno che l'Italia anche vorrebbe avere, però vediamo che chi investe in queste aziende poi viene anche penalizzato e bastonato. Andrea, io devo lasciarti, anzi adesso devo sentire l'avvocato Grosso, che per la verità posso sentire solo per un paio di minuti. Avvocato Grosso, ci può tenere compagnia anche per la seconda parte di Salvadanaio? Io le chiedo solamente 5 minuti. Avvocato, mi sente? Sì, la sento. Ecco, sì. Le chiedo, guardi, io vado subito in pubblicità se è possibile, quindi la recupero immediatamente fra 3 o 4 minuti, non appena abbiamo terminato questo, poi la tengo per 5 minuti, so che lei ha fretta, ma ho voluto dare in primo luogo la testimonianza di Andrea perché mi sembra molto significativa. Tra pochissimo. Salvadanaio. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi a Salvadanaio stiamo discutendo degli effetti economici complessivi del verdetto che il Tribunale di Parma ha emesso settimana scorsa, ai danni verso Calisto Tanzi, appunto l'ex patron di Parmalat, condannato a 18 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta e associazione a delinquere. Ma soprattutto il Tribunale di Parma ha stabilito che agli ex obbligazionisti venga riconosciuta una provvisionale, cioè una sanzione pecuniaria inflitta agli imputati pari al 5% del valore nominale delle vecchie obbligazioni detenute. È una questione un po' complessa. Allora, avvocato Carlo Federico Grosso rappresenta i 32.000 ex obbligazionisti che oggi si radunano nel comitato Parmalat Bond Clienti Banca Intesa San Paolo. Ci spiega esattamente qual è il significato appunto di questa provvisionale, che comunque credo voi non abbiate molta fiducia nel fatto di poter effettivamente vedere questo denaro, perché è abbastanza difficile individuare proprio i beni confiscati agli imputati dai quali si dovrebbe ricavare questo denaro. Ma guardi, il Tribunale di Parma ci ha riconosciuto il 5% del valore nominale delle obbligazioni possedute dai 32.000 che io assistevo nel processo. Questo significa circa un 20 milioni di euro in termini concreti. Noi siamo ovviamente contenti del fatto che in linea di principio il Tribunale ha riconosciuto una provvisionale. Era in linea di principio importante. Dal punto di vista pratico, noi riteniamo che sarà difficile riuscire, da coloro che sono stati condannati, ottenere il ristoro pari a questi 20 milioni di euro, in quanto difficilmente la capienza patrimoniale di queste persone è così elevata. Teniamo presente anche che la nostra provvisionale deve concorrere con i 2 milioni di euro riconosciuti, no, 2 miliardi che devono risarcire. I 2 miliardi di euro, infatti sono subito accorto che stavo facendo cosa ci sono. Sì, ma anch'io qualche volta vado in confusione. 2 miliardi di euro riconosciuti alla società Parmalat. Ecco, quindi chiaramente in ogni caso li saremmo scacciati, però noi riteniamo che anche Parmalat da queste provvisionali non riceverà praticamente nulla perché non c'è capienza. Per quanto riguarda però la nostra posizione, noi siamo tutto sommato abbastanza soddisfatti dei risultati economici ottenuti, ma non come risultato immediato dei processi, ma come risultato mediato della nostra presenza degli stessi, che ci ha consentito di arrivare a stipulare una serie di transazioni, cioè di accordi, prima con la società di revisione Deloitte e poi con una serie numerosa di istituti bancari. Questi accordi, uno dopo l'altro, ci hanno portato in cassa circa 100 milioni di euro, che è una cifra oggettivamente notevole rilievo. Certo, allora praticamente così, tanto per dare anche il senso, avvocato, delle proporzioni, teoricamente gli obbligazionisti che lei segue dovrebbero essere risarciti per 600 milioni di euro. I miei dovrebbero essere risarciti per non più di 400 milioni di euro, quelli che rappresento io, i 32.000 che rappresento io. Perché allora, 600 milioni erano per i 35.000. Esattamente, non per tutti. Allora, facciamo un calcolo riferendo a un investimento, supponiamo, di 100. Sì. Chi ha investito 100 con riferimento alla vicenda Parma? Chi si trovava obbligazioni per 100 euro, ammettiamo, nel 2003, momento euro. Del crack, ecco. Esattamente. Quanto per cento di questi 100 li ha recuperati con l'operazione del concambio in azione delle obbligazioni e con la concessione di warrant? Quindi il 50%, grosso modo, i piccoli hanno recuperato di più, i grandi per i meccanismi economici, che adesso è troppo complicato spiegare. E il 50% l'hanno recuperato, sì. E quindi praticamente rimaniamo, diciamo, su 400 milioni di euro, 200 milioni di euro. Di questi 200 milioni di euro, con le transazioni non ne avevamo recuperati altri 100. Il che significa che in termini di recupero complessivo, mediamente gli obbligazionisti da me rappresentati hanno recuperato circa il 75% del danno subito al momento. Anche il Tribunale di Milano, avvocato, se non ricordo male, però vi ha riconosciuto una provvisionale lì dove si celebra il processo per aggiotaggio e per gli altri reati finanziari. Però di nuovo è un processo in cui lì era stato condannato in solo tanti e si proponeva il medesimo problema di incapienza della somme dei beni sequestrati sotto sequestro, e quindi il problema era lo stesso. Una provvisionale che ci è stato riconosciuto, però gli è stato riconosciuto soltanto in appello, addirittura il tribunale non ce l'aveva riconosciuta, l'appello ce l'ha riconosciuta, ma di nuovo è un titolo più onorifico che reale. Il dato importante è quello che siamo riusciti a recuperare con gli accordi. Benissimo, avvocato, io adesso la saluto, però un'ultima domanda gliela voglio fare. Adesso il prossimo step qual è? Il prossimo passo per queste persone che lei segue? Beh, per le persone che io seguo, è chiaro che le persone che hanno accettato gli accordi sono pian piano usciti dai processi contro i soggetti con cui ci siamo accordati, e noi continuiamo a essere presenti per i pochi dei nostri clienti che non hanno accettato in tutti i processi e per eventuali nuovi processi per tutti quanti, evidentemente. E al momento non sono in grado assolutamente di valutare che cosa questa ulteriore nostra presenza ci potrà portare. Posso solo dire, al momento abbiamo ottenuto dei risultati finanziari sicuramente superiori a quelli che sono ottenuti con riferimento a tutti agli altri grossi crack che si sono verificati in Italia o con i feci italiani. Avvocato, io la ringrazio per essere stato con noi. Concludo la mia trasmissione appunto con l'altro legale presente questa mattina. Grazie e buon lavoro. Buongiorno, a presto. Grazie. Avvocato Anna Campili, chiedo anche a lei appunto un commento rispetto a questa questione della provvisionale briciole. Hanno detto in molti, rispetto alle aspettative che molti risparmiatori avevano, anche se comunque, come ricostruiva l'avvocato Grosso, in questi anni non è che siano stati tutti quanti, anche se molti si sono persi per strada, e molti, ce lo raccontavamo prima a microfoni spenti con l'avvocato Campili, in molti si sono persi per strada e non hanno fatto nessun tipo di percorso per tentare di ottenere una restituzione del loro investimento iniziale. E però la questione dei beni confiscati agli imputati, dai quali si potrebbe ricavare questo 0,5% di provvisionale, questi 20 milioni di euro, è un tema molto delicato, perché per la verità richiederebbe l'apertura di un altro versante processuale, se non ho capito male, avvocato Campili. Sì, comunque non c'è da fare affidamento sulla possibilità di far valere la provvisionale sui beni confiscati, perché i beni confiscati valgono 150 milioni in tutto e subiscono innanzitutto una partecipazione da parte della nuova Parmalat per 2 miliardi, quindi c'è assoluta incapienza nei beni sequestrati. C'è anche da dire che la sentenza, oltre alla provvisionale del 5%, lascia aperto il discorso del come recuperare il residuo 95% a carico di questi imputati. e a questo riguardo rinvia ad un separato processo di quantificazione che dovrebbe cominciare dopo la fine del processo penale, cioè in tempi assolutamente disumani. Ecco. Ora, rispetto a quanto ha detto il collega avvocato Grosso, io volevo far presente che non risulta dai miei calcoli che i risparmiatori Parmalat abbiano ottenuto dal concambio il 50%. Questo io credo che dipenda anche dal valore del titolo in borsa, forse magari in certi momenti quando il titolo è arrivato a quotare 2,80 euro, forse in relazione anche alla tipologia di obbligazione originariamente detenuta, per qualche caso forse si è arrivato, ma ecco, quota regolarmente verso 2 euro, quindi se il concambio era dell'11,8%, adesso siamo a dir tanto fino al 23%. 24% di recupero, ecco, dal concambio. Io credo, effettivamente non siamo riusciti a precisare questo aspetto con l'avvocato Grosso, mi era venuto in mente mentre lui stava facendo tutto il ragionamento, ma diciamo che nel momento migliore della quotazione, in relazione alla tipologia di obbligazione originariamente detenuta, e se magari in quel momento, quando il titolo è arrivato al suo massimo degli ultimi tempi, appunto a 2,80 euro, l'investitore avesse liquidato fortuitamente in quel momento il suo pacchetto, forse potrebbe aver ottenuto il 50%, magari qualche caso c'è stato, ma chiaramente non è una condizione che accomuna invece tutti gli ex obbligazionisti Parmalat. Te la ringrazio, avvocato Campilli, per aver precisato questo aspetto. Allora, lei quanti ne ha seguiti, avvocato, a Parma? Quanti risparmiatori ha seguiti a Parma? Originariamente erano 190, adesso si sono ridotti a 120 nel penale. Quello che volevo dire è che chi ha ottenuto dei risarcimenti consistenti, in realtà li ha ottenuti sia in via giudiziale che in via transattiva dalle banche venditrici, cioè in sede civilistica, per vizi formali oppure per vizi di negoziazione. Esatto, perché anche quello è un altro bel capitolo molto delicato, e dobbiamo anche ricordare, per essere ovviamente precisi, che tutti gli ex obbligazionisti che aderiscono al comitato Parmalat, guidato e oggi seguito dall'avvocato Carlo Grosso, hanno dovuto firmare una clausola in cui si sono impegnati a non fare l'azione legale nei confronti della banca, giusto, avvocato? Esatto. Campilli? Ecco. Esatto, invece chi non ha assunto questo impegno, cioè di non agire contro la banca venditrice, il più delle volte è perché aveva in mente di ottenere una qualche forma di risarcimento. A tale proposito c'è da dire che ci sono dei casi di nullità radicale degli acquisti che agevolano molto le cause, perché in caso di nullità ognuno restituisce quello che ha preso, quindi non ci sono problemi di quantificazione del danno. Il risparmiatore recupera la somma investita e la banca si riprende i titoli. Sono casi abbastanza rari, però insomma. Però qualcuno c'è e comunque rappresentano precedenti. Il contratto quadro, per esempio, oppure quando il contratto quadro è vecchio e non aggiornato in base alle direttive Consob del 98, e poi ci sono anche dei casi di firme false del contratto quadro. Lei ne ha seguite ben tre di vicende di questo tipo. Sì. Chi ha firmato, qualche funzionario di banca? Questo non si è saputo. Però insomma, chiaramente dopo il crack le banche sono corse ai ripari per cercare di mettere in regola la documentazione. Ecco. Poi c'è il caso della nullità del singolo ordine per negoziazione nella fase di mercato grigio, il cosiddetto grey market che si ha quando i titoli sono stati fatti prenotare prima della loro emissione. Uh-huh. In questi casi la magistratura parla di collocamento indiretto, in quanto le banche hanno comprato i titoli coi soldi dei risparmiatori, ma non lo potevano fare in questa fase di mercato primario. Non potevano collocarli presso il pubblico indistinto. Istituzionali, ecco. Certo. Allora, avvocato, ci dobbiamo fermare. Insomma, certo che questo è un caso che peraltro ha creato anche una giurisprudenza enorme per quello che riguarda un po' tutto il tema generale del risparmio tradito. Adesso ci dobbiamo fermare, dobbiamo ancora affrontare un paio di aspetti. Intanto c'è un'ascoltatrice pronta sul tema Alitalia, e quindi faccio scaldare i motori a Fabio Picciolini. Dobbiamo affrontare, poi io so che non è il suo campo, non so se l'avvocato Campilli ne ha seguito anche qualcuno degli ex azionisti Parmalat, perché su quelli effettivamente la questione è stata molto più complicata e non con buone notizie, ma ci fermiamo tra pochissimo. Salva Danaio. Lasciamo per un attimo Parmalat, ma solo per un attimo, con la domanda di Mariella da Trieste e poi l'intervento di Fabio Picciolini. Mariella, buongiorno. Buongiorno a voi, intanto vi auguro buon Natale. Grazie Mariella, è la prima ascoltatrice che ci fa tutti i giorni. Grazie, allora, grazie. Volevo andare su un altro scandalo, che anche quello non è da poco, dei piccoli azionisti all'Italia. Sì. Ma noi siamo stati buggerati due volte, perché come cittadini abbiamo pagato 300 milioni, mi ricordo, di euro, abbiamo dato all'Alitalia. In campagna elettorale il titolo oscillava maledettamente perché c'era la storia che Alitalia doveva essere italiana, e dopo noi piccoli azionisti il titolo è sparito dalla borsa. Mm-mm. E chi si è visto si saluta. Questa è la realtà degli scandali italiani, perché ce ne sono di pregressi. Però Mariella, sì, guardi, adesso non apriamo la polemica, perché su questo io ovviamente mi rendo conto dello sconforto di voi piccoli azionisti, perché è giusto che sia così, e questa è stata una vicenda scandalosa per tanti aspetti. Detto questo, sul caso Alitalia avevamo cercato di porre dei riflettori, un faro. C'è stata una fase in cui era necessario uscire da questo titolo, e forse non tutti ne sono stati ben consapevoli, affidandosi alle parole di chi non doveva esprimerle. Manterremo l'italianità e tutto quanto. Detto questo, Mariella, il tema oggi, chi ha conservato le azioni oggi, è stato risarcito però dallo Stato con dei nuovi titoli di Stato. Il tema è: lei ha ricevuto questi nuovi titoli di Stato sul conto titoli? Assolutamente no. Ecco, allora questo è quello che volevo sapere. Fabio Picciolini, è stato pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che ha disposto l'emissione di titoli di Stato da assegnare ai risparmiatori aderenti allo scambio dei titoli all'Italia, procedura che si è chiusa nei mesi scorsi. E allora, nei tempi non ci siamo ancora, teoricamente è abbastanza probabile che sul conto titoli delle persone che hanno aderito all'iniziativa dello Stato non ci siano ancora le nuove obbligazioni statali? No, non ci sono proprio su nessun conto titoli di nessun ex obbligazionista o azionista all'Italia. Per ora c'è una legge, ci sono delle banche, degli intermediari che debbono acquistare questi titoli, così come previsto appunto dalla nuova legge. Dopodiché sarà possibile che le singole banche diano a chi ha un pezzi, come si usa dire, di più di 1000 euro la quota al di loro spettanza sul loro conto titoli, ovvero chi invece ha meno di 1000 euro oppure 1000 euro e una frazione di un migliaio, saranno invece dati, resteranno complessivamente in un conto presso la banca e saranno dati solamente più tardi. Ricordo solamente per memoria che si parla di 0,71 perché era obbligazionista rispetto a un euro di valore, 0,27 rispetto a un euro di valore per le azioni. Mm. E i titoli sono in scadenza 2012. Mm. Allora, adesso quindi, che cosa il suggerimento, Picciolini, a tutte le persone che si stanno preoccupando e che ovviamente sulla scia di tutte le promesse fatte ancora non vedono niente? Credo che sia questione ancora di qualche giorno, al limite di qualche settimana, ne torneremo a parlare a gennaio, ma in ogni caso a loro è stato riconosciuto il diritto di questo risarcimento, e ci sarà. C'è certezza. Questo si può dire, c'è certezza, non è ancora, appunto, ci sono dei tempi tecnici per attuale, ma io credo che massimo entro gennaio. Si parlava del 31 dicembre, sappiamo che i tempi si allungano molto spesso nel nostro paese, diciamo che entro gennaio le persone, nelle modalità che ho detto prima, avranno riconosciuto la quota di loro spettanza di chi ha mantenuto. Esatto, e vorrei che si ricordasse. Chi ha mantenuto, solo per chi ha mantenuto quei titoli. Esattamente, chi non ha aderito all'offerta perde tutto, ci chiede Antonio. Esatto. Temo di sì, esatto. A meno che non ricostruisca la modalità in cui magari presso l'intermediario finanziario è stato fatto l'acquisto, e se c'è un vizio di forma, come ci insegna l'avvocato Campini, magari lì, ma questa è un'altra storia. Vorrei magari, Picciolini, che mi aiutasse lei ad enfatizzare questo aspetto. Nei vecchi crack finanziari dei quali stiamo tanto parlando, azionisti di società non hanno riconosciuto un bel niente. Questo è un caso invece che ha riconosciuto risarcimento anche ad azionisti, cioè detentori di capitale di rischio di una società. È la prima volta che capita nel nostro paese, ma c'è anche un motivo. Ricordiamo che la maggioranza dell'Italia era del Ministero del Tesoro, allora un Ministero dell'Economia attuale, per cui le decisioni sono state assunte senza nessun coinvolgimento da parte degli azionisti. Era una maggioranza addirittura qualificata, per cui mi sembra giusto che in questo caso, almeno in questo caso, sia riconosciuto anche agli azionisti un minimo, perché poi lo 0,27, l'ho detto prima, quantomeno una piccola parte di quello che hanno investito. Rosciani, informati, la firma all'Italia è stata messa 18 mesi fa, chissà a quale si riferisce, a quella appunto con cui evidentemente lo Stato ha stabilito i parametri del concambio da Mengozzi Bond a titoli di Stato. Lasciamo l'Italia, ritorniamo proprio per gli ultimi minuti di tempo che abbiamo a disposizione. Saluto Mariella da Trieste. Mariella, se lei ha regolarmente fatto tutta la procedura di richiesta di adesione al nuovo concambio appunto con la sua banca, entro qualche settimana sul suo conto corrente qualcosa comparirà, ma ci tenga informati della situazione, che la continueremo a seguire anche noi. Avvocato Campili, per gli ex azionisti Parmalat invece, io non so se lei le è capitato appunto di assistere anche a qualche cliente in questa situazione, niente. Sì, per gli ex azionisti Parmalat è successo che le cause in civile di solito non hanno fruttato un risarcimento, a meno che non ci fossero proprio degli evidenti vizi di negoziazione, mentre sono stati ammessi regolarmente come parte civile in sede penale perché hanno subito anche loro un danno, oltre che economico, un danno morale. Cioè qui si tratta chiaramente non tanto di aspetti civilistici quanto di danni subiti da atti di falsità in bilancio, cose che sicuramente i piccoli azionisti non potevano conoscere, e si tratta anche di atti nei quali analogamente al caso Alitalia i piccoli azionisti non erano coinvolti. Anche nel caso Parmalat possiamo verificare una situazione analoga a quella dell'Alitalia, cioè c'era una maggioranza forte che prendeva sostanzialmente le decisioni principali, non solo, ma in caso di assemblea dei soci non venivano rese note le operazioni truffaldine consistenti appunto nelle falsità in bilancio, nella prospettazione di liquidità inesistente e tutte le cose che abbiamo poi scoperto durante il processo Parmalat. Allora, la nostra puntata è volata anche oggi e vedremo se riusciremo più avanti appunto a ridedicare ancora una puntata, una trasmissione appunto ai casi di risparmio tradito. Sui Tango Bond non abbiamo potuto citare niente oggi, allora ci riorganizzeremo una puntata, perché molte persone sono ancora in attesa anche in questo caso di capire che destino avrà il loro denaro. Adesso la nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. Fino alla fine di febbraio vi proponiamo, forse anche fino ad inizio marzo, in collaborazione con l'INPS, le parole per chiarire e spiegare le parole della previdenza. Spiegarcele sta ancora in nostra compagnia il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua, che oggi ci spiega quali sono i limiti di reddito per l'assegno sociale. L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale, pertanto legata al reddito, che non può essere superiore a determinati limiti previsti dalla legge. L'assegno spetta, in misura intera, se il richiedente non ha alcun reddito, personale o cumulato con un eventuale coniuge, oppure spetta in misura ridotta se i redditi, sia quelli personali sia quelli cumulati con il coniuge, non superano i limiti previsti. Per il 2010 tali limiti sono di 5.349,59 euro per il reddito personale e 10.699,78 euro per quello cumulato. Per poter aver diritto all'importo intero, che per il 2010 è di circa 412 euro mensili, non si devono avere altri redditi. Non tutti i redditi sono considerati rilevanti ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale. Abbiamo terminato, era Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS. Saluto gli ascoltatori che si sono offesi perché ho ricostruito prima tutto il malessere di Andrea Cogo, questo ragazzo che è stato coinvolto suo malgrado nel crack Parmalat, ha perso tutto e in un momento triste della sua vita ha detto: io a Roma non do niente perché Roma mi ha tolto tutto. Cioè, cercate anche di capire un po' il contesto in cui queste parole sono state espresse. Adesso anche esprimere addirittura della così dei commenti su quella cosa, io lascio perdere. Grazie a tutti per essere stati con noi, all'avvocato Grossa, all'avvocato Anna Campilli e Fabio Picciolini, Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadori in assistenza tecnica. Domani c'è con voi Valeria De Rosa, io torno mercoledì. Buona giornata.